voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Gianfranco Carli, l'olio a casa da 100 anni, di Anna Marino. Noi siamo tra il mare e le colline coltivate ad olivi, quindi uno è sicuramente immerso nella natura, perché al mattino quando apre la finestra di casa si vede il mare davanti e poi se si gira verso la collina vede tutti gli oliveti, sicuramente una cosa molto piacevole. Poi logicamente ci sono degli altri inconvenienti, noi viviamo un pochettino a un'estremità dell'Italia, per cui certe cose sono sicuramente molto più scomode, dai trasporti al fatto che Imperia è una cittadina molto piccola o relativamente piccola, e per cui per tanti servizi, per tante cose bisogna poi rivolgersi alle città più grandi, ai centri più grandi, qua a Milano, a Torino, a Genova, dove uno è obbligato ad andarci abbastanza spesso. Per di più da noi c'è una cronica mancanza di servizi, per cui i treni sono molto scomodi, le autostrade sono molto trafficate, eccetera, per cui su, abbiamo un pochettino questi inconvenienti. Gianfranco Carli, nato a Imperia nel 1947, è laureato in scienze economiche e commerciali. Dal 1988 è amministratore delegato della Fratelli Carli S.p.A. Rappresenta la terza generazione della Fratelli Carli, azienda leader nella vendita diretta alle famiglie, con mezzi propri, di olio di oliva e altre specialità. Racconta di luoghi impervi e ripercorre la storia di impresa della sua famiglia, che con impegno supera le difficoltà da quasi 100 anni, prendendo esempio dalle piante d'olivo, che per dare i loro frutti si arrampicano sulle millenarie fasce della terra ligure. Le fasce sono sicuramente la caratteristica principale della Liguria, della provincia di Imperia in particolare. Si dice che ce ne siano centinaia di migliaia di chilometri, che sono, se ci pensiamo bene, una cosa al tempo che ci hanno messo per costruirla, la fatica che hanno fatto, considerando che il nostro territorio è molto aspro, ripido, eccetera, è una cosa veramente incredibile. Sfortunatamente nel tempo queste fasce sono state ben poco mantenute, anche perché in tante zone l'olivicoltura è stata anche abbandonata perché non è più redditizia, ed adesso è anche difficile trovare qualcheduno che sia in grado di ricostruire questi muri, che erano muri completamente a secco, quindi senza l'uso di cemento, che hanno resistito per centinaia e centinaia di anni e che adesso nei punti dove sono ormai crollati bisogna spesso ricorrere a manodopera che viene dall'estero, perché da noi non si trova assolutamente più nessuno che sia in grado di rifarli, che abbia anche voglia di rifarli. Le fasce, secondo me, dovrebbero essere un patrimonio dell'umanità come tantissime altre cose. Hanno il difetto che non sono concentrati in un posto, non sono come le piramidi che sono lì, ma sono disperse in tutto il territorio, ma sono un'opera ciclopica, perché l'olivo, per riuscirlo a coltivare, bisognava in qualche modo metterlo in piano, e siccome il terreno era molto ripido, queste fasce venivano fatte per fare delle zone dove ci si potesse poi piantare sopra l'olivo. La storia dei fratelli Carli di Imperia Oneglia è quella di un'azienda a conduzione familiare che si è affermata nel settore oleario e alimentare, contando su due fattori distintivi fortemente identificanti: l'orgoglio di portare avanti una tradizione di famiglia che privilegia l'eccellenza qualitativa del prodotto sulla quantità, e il rapporto diretto con la clientela, cui i prodotti Carli vengono consegnati a domicilio, senza utilizzare i canali di vendita tradizionali. Fratelli Carli nasce nel 1911 a Oneglia, a quei tempi comune autonomo, oggi parte integrante della città di Imperia, grazie alla brillante intuizione di Giovanni Carli, che decide di sfruttare un'annata olearia particolarmente fortunata per vendere il prodotto degli oliveti di famiglia. Il successo di questa idea è tale che la tipografia di famiglia viene assorbita e integrata nella nuova attività. Ancora oggi la tipografia è operativa a supporto del business principale, la vendita di olio d'oliva. Gianfranco Carli racconta la virata che il fondatore Giovanni Carli ha voluto dare rispetto alla prima attività nell'editoria. Mio bisnonno aveva una tipografia che aveva comperato per dare un'attività ai suoi figli. E mio nonno, che è stato il fondatore dell'azienda esattamente 100 anni fa, perché noi tra un anno facciamo giusti 100 anni, ha approfittato di un anno in cui l'olivicoltura aveva avuto un raccolto particolarmente favorevole per cominciare, come facevano già in tanti d'altronde nelle nostre zone, ad andare a vendere il prodotto delle nostre campagne, delle sue campagne, probabilmente nel basso Piemonte, nelle zone limitrofe. Avendo questa tipografia, da lì è probabilmente nata l'idea di fare subito questo tipo di vendita, che poi ci ha sempre contraddistinto nei 100 anni di nostra storia, della nostra storia, che è quella della vendita per corrispondenza. Noi la tipografia l'abbiamo sempre mantenuta in azienda, ancora oggi ce l'abbiamo, e la tipografia lavora ad uso e consumo della Fratelli Carli, nel senso che lavora solo per la Fratelli Carli, stampa tutti i listini, i cataloghi, tutto quanto è necessario per effettuare la vendita per corrispondenza, perché, come sappiamo, richiede un contatto continuo con i clienti e quindi la preparazione di molto materiale cartaceo. Ecco perché Giovanni Carli decide di prendere l'onda e navigare verso un'attività tradizionale per la terra in cui viveva. È un'onda che hanno percorso altri oltre a lui, perché la nostra è sempre stata una zona di produzione di olio d'oliva. Noi siamo confinanti con il Piemonte, dove invece, come si sa, l'olivo non è mai stato coltivato, e quindi ha cercato probabilmente di approfittare di questa vicinanza che aveva con il Piemonte per andargli a vendere il suo prodotto. Prima le spedizioni venivano effettuate tramite la ferrovia, poi tramite la posta, poi mano in mano ci si è sempre evoluti fino ad avere un servizio di consegne che viene utilizzato per andare a servire i nostri consumatori, i nostri clienti. Negli anni successivi l'azienda è in ascesa continua. Nel 1927, infatti, Fratelli Carli ottiene la qualifica di fornitore pontificio e nel 1937 quella di fornitore della Real Casa. Dopo la battuta d'arresto dovuta alla Seconda Guerra Mondiale, la crescita della Fratelli Carli riprende, per arrivare senza interruzioni sino ai giorni nostri. Gianfranco Carli lancia uno sguardo ai momenti di difficoltà e di ripresa che la sua azienda ha dovuto attraversare. Io sono entrato in azienda che l'azienda era già molto ben avviata. Mio nonno me lo ricordo benissimo, perfettamente, però quando sono entrato in azienda io, il nonno non c'era assolutamente più, erano già anni che si era ritirato, io ho sempre lavorato con mio papà, e ricordo, la cosa che ricordo sempre, che mi hanno sempre raccontato, state forse le vicende che sono avvenute durante la guerra, perché siccome la nostra azienda è vicina alla ferrovia, alla stazione ferroviaria di Imperia, l'azienda è stata bombardata 2 volte ed è stata quasi rasa al suolo, in buona parte è stata rasa al suolo, si erano soprattutto persi, era andato soprattutto perso tutto l'indirizzario dei clienti, per cui una volta finita la guerra si è dovuto praticamente ricominciare tutto da capo, andando un po' a ricercarli noi, un po' per il fatto che i clienti stessi, che si erano sempre trovati molto bene, erano sempre stati molto contenti del prodotto, si facevano vivi loro stesso e quindi hanno aiutato loro stessi a riformare quel annuario, quell'elenco di tutti i nostri clienti. Gianfranco Carli racconta come è cambiata l'organizzazione dell'azienda nel tempo. L'azienda ha sempre avuto una serie di fornitori, poi mano a mano si è sviluppata. Chiaramente una volta il lavoro era molto più manuale, e se noi pensiamo che fino a quando è venuto l'aiuto al consumo, cioè circa 20 anni fa, il contenitore che noi vendevamo ancora di più erano le damigiane. Noi le damigiane ce le costruivamo in azienda, perché arrivavano i vetri, arrivavano i cesti, arrivavano i cappellotti per chiuderle, e c'erano delle persone che erano adibite a mettere insieme i vetri dentro i cesti, la paglia, tutte queste cose così, quindi un lavoro molto manuale che al giorno d'oggi non è neanche più ipotizzabile. Ma anche il lavoro di raccolta e tutto il procedimento per arrivare all'olio, racconta Gianfranco Carli, è cambiato nel tempo. Sicuramente una volta era molto più influenzato dall'andamento climatico, perché si è sempre detto che l'olivo produce ad anni alterni, ma ciò non è veramente vero, non è propriamente vero, nel senso che dopo che sono stati adottati dei metodi di irrigazione, l'olivo, se si vuole, produce tutti gli anni. E poi, vabbè, logicamente l'olivicoltura si è molto meccanizzata, eccetera, e quindi è molto migliorata. Di generazione in generazione, il passaggio di testimone è stato naturale come l'alternarsi delle stagioni, dice Gianfranco Carli. Io non credo che ci sia nessuna ricetta particolare. Mio nonno a un certo punto si è ritirato dall'azienda, lavorava ancora un po' da casa, però poi l'azienda l'ha sempre portata avanti mio papà per tantissimi anni, in cui l'azienda si è sviluppata molto. Io poi, quando sono entrato in azienda, ho fatto il mio lavoro. Devo dire che mio padre mi ha sempre aiutato e a un certo punto ha cominciato a lasciarmi assolutamente portare avanti l'azienda come lo desideravo io. Io d'altronde ormai io sono più di 25 anni che ne sono l'amministratore delegato, e lo stesso cerco di fare con i miei figli, che adesso sono entrambi in azienda. La cosa assolutamente necessaria è che loro siano interessati a farlo. Trovare la quadra tra vita e lavoro, secondo Gianfranco Carli, ha il punto di partenza nella passione. Ma ci sono anche scelte che si possono fare in controtendenza. Anche qua credo che non ci sia nessuna ricetta. Io ritengo che uno lavora quanto gli piace lavorare. A me fortunatamente lavorare piace molto e credo che sia un grossissimo vantaggio. È giusto che uno si ritagli il tempo per dedicarlo alla famiglia, agli amici, allo sport, eccetera. Però poi quanto, secondo me, dipende tutto da quanto, con quanto piacere lavora. Nello svolgimento della sua attività, Fratelli Carli può contare su 250 dipendenti e 140 padroncini che si occupano delle consegne. Fratelli Carli diffonde con successo in Italia e all'estero il gusto per un prodotto genuino e di qualità, tanto che attualmente l'azienda arriva a contare su un parco clienti attivo di 760.000 unità, di cui 600.000 in Italia e 160.000 tra Francia, Austria, Germania, Inghilterra e Stati Uniti, su un fatturato di 125 milioni di euro. Noi una cosa abbiamo sempre avuto, ma che è ancora dai tempi di mio nonno: due palazzine all'ingresso dello stabilimento che sono a disposizione dei dipendenti, dove ci sono degli appartamenti che sono a disposizione dei dipendenti e dove possono starci quelli che devono mettere su famiglia, eccetera, che quindi ci stanno un certo numero di anni. Nel frattempo magari si costruiscono la casa sulla collina o nelle vicinanze. Ci sono progetti rivolti proprio alla gente, nati nell'azienda a cui Gianfranco Carli tiene molto. L'azienda agricola Fratelli Carli, situata nella suggestiva vallata sopra Oneglia, nasce nel 2004 dalla volontà del cavalier Carlo Carli, presidente della Fratelli Carli, di completare l'identità dell'azienda con una realtà agricola dedicata alla ricerca e alla coltivazione di piante d'olivo. Sviluppata su una tenuta di quasi 13 ettari di estensione, l'azienda agricola conta circa 3.000 piante di olivo taggiasco, coltivate e seguite con cura da personale addetto. Ma c'è anche il Museo dell'Olivo, nato nel 1992 dalla passione della famiglia Carli per questa pianta straordinaria, simbolo di pace e di vittoria. Ospitato in un'elegante palazzina in stile Liberty, è dedicato all'olivo e ai suoi frutti e ne attraversa gli aspetti storici, botanici, artistici e tecnologici. Il museo è nato da un'idea di mio padre, perché lui per tutta la sua vita, soprattutto durante i viaggi che faceva magari per andare a vedere la campagna olearia, ha sempre comperato delle cose che riguardavano appunto l'olivo, principalmente oliere, contenitori per profumi e cose del genere. E un bel giorno, siccome ne aveva una quantità abbastanza consistente, ha deciso di fare questo museo, al quale si è dedicato anima e corpo per degli anni, perché non c'era mai l'architetto che lo soddisfacesse, che gli piacesse quello che... e che lo realizzasse nel modo che voleva lui. Le innovazioni tecnologiche sono ben presenti in azienda, come internet. Attualmente la Fratelli Carli riceve circa il 10% degli ordini mediante questo canale. Acquistare attraverso il sito è facile e veloce. Non ci sono limitazioni. È possibile infatti ordinare 7 giorni su 7 e 24 ore su 24. Internet è una cosa a cui abbiamo guardato dal momento in cui è nato, a cui abbiamo creduto da subito, e quindi ci vorrà un cambio generazionale. E poi probabilmente farà come ha fatto per il telefono, perché noi una volta ricevevamo quasi la totalità degli ordini per lettera, per cartolina, eccetera. Adesso più o meno il 70% degli ordini arrivano per telefono, quelli di internet sono al 10%, poi un bel giorno probabilmente la cosa si ribalterà. Ma in mezzo a tutte le novità, Gianfranco Carli non dimentica le origini, in particolare il dialetto genovese. Sì, non si può fare tutta la sciascia urbino su. Mentre mio nonno parlava sempre solo in dialetto, poi queste abitudini col passare del tempo si sono perse. Adesso devo dire che è un po' peccato che non si parli più. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili al sito internet www.radio24.it. Buona serata e a domenica prossima.